ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Si dice spesso che in Italia si legge poco. Ciò è probabilmente e tristemente vero. Ma altrettanto vero è che in Italia, come in molti altri paesi del resto, si scrive molto. Tante persone, di tutte le età e di tutte le condizioni, hanno un libro nel cassetto, o hanno perlomeno il desiderio di scriverne uno. I concorsi letterari sono sempre affollati. Le case editrici ricevono centinaia di proposte. Perché? Scrivere è faticoso, molto più di leggere. È un'attività che richiede tempo, concentrazione, solitudine, dedizione, pazienza. E che, il più delle volte, non ripaga della fatica profusa. Perché allora si scrive? Forse taluni sono spinti dal sogno di diventare ricchi e famosi. Ma se si guarda le statistiche, si scopre che le probabilità di arricchirsi o almeno di mantenersi con la scrittura sono bassissime, simili a quelle che si hanno di vincere la lotteria, con la differenza che comprare un biglietto della lotteria costa qualche euro, mentre la scrittura si paga con un impegno assoluto e con il sacrificio di una buona fetta della propria vita. Sorge perciò di nuovo spontanea la domanda: perché? Molti scrittori si sono posti lo stesso interrogativo. Voglio leggervi la risposta di un autore amatissimo dal pubblico, premio Nobel nel 1982, Gabriel García Márquez. Scrivere libri è un'attività suicida, afferma Márquez. Nessun'altra occupazione richiede tanto tempo, tanto lavoro, tanta dedizione in rapporto con i suoi benefici immediati. Non credo che siano molti i lettori che, terminando la lettura di un libro, si chiedono quante ore di angustie e di calamità domestiche siano costate all'autore queste 200 pagine e quanto abbia ricevuto per il suo lavoro. Dopo questa triste constatazione di infortuni, è naturale chiedersi perché scrivano gli scrittori. La risposta, necessariamente, è tanto più melodrammatica quanto più sincera. Si è scrittori semplicemente come si è ebrei o neri. Il successo è incoraggiante, il favore dei lettori è stimolante, ma queste sono garanzie supplementari, perché un buon scrittore continuerà a scrivere in ogni modo, persino con le scarpe rotte e anche se i suoi libri non si vendono. Io credo che Márquez abbia ragione. Si è scrittori come si è ebrei o di pelle scura, si è scrittori perché si nasce con il marchio della scrittura. C'è però una differenza sostanziale fra l'essere ebrei o neri e l'essere scrittori. Nel primo caso non si deve diventare se stessi, lo si è già dalla nascita. Nel secondo, per diventare pienamente se stessi e quindi scrivere, c'è un lungo, faticosissimo percorso. Si nasce dopo un travaglio che dura anni e anni. Io amo paragonare lo scrivere al trovare la propria voce. Per me, perlomeno, è stato così. Se permettete, vi racconterò un episodio della mia vita. Per molti anni ho avuto problemi di raucedine. Mi bastava parlare per qualche ora a voce alta, e in quanto insegnante dovevo farlo praticamente tutti i giorni, per ritrovarmi giù di voce, rauca o addirittura afona, una vera tortura. Immaginate la fatica di volere, anzi dovere parlare e non riuscirci. Sentire un peso sul petto, come una mano che mi schiacciava e mi impediva di esprimermi. Forse per contrastare la mia difficoltà a esprimermi, avevo, e ho tuttora, un grande interesse per le lingue straniere. Sentivo il bisogno di studiarne sempre di nuove, una dopo l'altra. Ricordo che un amico mi disse che, dietro tale interesse, c'era un desiderio di comunicare che non riuscivo a soddisfare con i mezzi comuni. Forse aveva ragione, chissà. Quello che è certo è che i miei problemi di voce sono terminati, spero per sempre, quando, in età purtroppo già avanzata, sono finalmente riuscita a scrivere un libro. Lo desideravo da una vita, ma per un motivo o per l'altro, primo fra tutti il fatto che non credevo abbastanza in me stessa, non ci riuscivo mai. Finalmente avevo trovato la mia voce. Vi auguro di riuscire a trovare la vostra e soprattutto di non rinunciare mai alla ricerca della vostra vera voce. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof. Ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.